2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo, questa è la puntata del 25 ottobre 2014. Benvenuti o bentornati a 2024. Oggi è anche Linux Day, quindi un appuntamento importante per festeggiare il software libero e per sensibilizzare cittadini, famiglie e soprattutto aziende e anche pubblica amministrazione sull'importanza del software libero. Questo è un appuntamento annuale, quindi ogni anno in ottobre c'è il Linux Day. Allora, l'importante è capire cos'è il software libero, l'open source, il free software, che non necessariamente è software gratuito, ma a volte è anche software gratuito. E poi, una volta capito e capite anche le possibilità, le opportunità che ci sono, aziende, pubbliche amministrazioni e anche cittadini possono scegliere. Allora, non sempre, io non sono un talebano del software libero, nel senso che non sempre le soluzioni migliori sono software libero, ma è comunque un'alternativa, una possibilità da prendere in considerazione. Oggi parleremo di startup. Sono stato per 3 giorni a SMAO Milano. SMAO è oramai un appuntamento importante per tutto il territorio. Ci sono varie iniziative in tutta Italia. L'appuntamento finale, forse ancora quello più importante, è quello di Milano, dove si fanno un po', si tirano un po' le somme di questo percorso che si fa durante l'anno in tutta la nazione, in tutte le regioni. Una parte molto importante di SMAO già da una decina di anni sono le start-up. Ho fatto un giro, ho chiacchierato con tantissimi giovani e meno giovani che hanno creato un'azienda da poco. Parleremo anche di problemi di sicurezza che hanno colpito la pubblica amministrazione. Uno dei fenomeni che abbiamo commentato recentemente anche 2024 riguarda i ricatti online, i ricatti digitali. Ti prendo ostaggio di tutti i dati che hai all'interno della tua azienda o all'interno della pubblica amministrazione e poi ti chiedo il riscatto, ti dico se vuoi che ti liberi tutti i dati. Sembra una cosa strana, ma succede, sta succedendo in molti casi, è notizia delle ultime settimane che è successo anche in alcune decine di comuni italiani. Iniziamo con le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dai pagamenti NFC, pagamenti contactless o comunque una delle versioni dei pagamenti in mobilità digitali. Allora, Poste Mobile aveva già iniziato a offrire questa possibilità, ma ora c'è la nuova Super SIM NFC che permette di caricare sullo smartphone le carte PostePay e PosteMat collegate al proprio conto Banco Poste. In questo modo si può usare lo smartphone per pagare in tutti i negozi dove già esiste un POS abilitato. Ce ne sono parecchie migliaia, sicuramente l'Italia è uno dei paesi che sta adeguando la rete di POS anche ai pagamenti contactless in modo piuttosto importante. Allora, segnaliamo che TIM lancerà il 28 ottobre la nuova Smart Pay sul circuito Visa, a proposito di pagamenti contactless NFC, e Vodafone ha già la propria offerta che si chiama Smart Pass sul circuito Mastercard, di cui abbiamo parlato a 2024. Digital News. Sulla scia della nuova funzione famiglia lanciata da Apple col nuovo sistema operativo iOS 8, arriva anche Spotify Family. Allora, questa è un'opzione che consente ad un massimo di 5 persone nella stessa famiglia di avere il proprio profilo con le proprie playlist tutti accorpati in un unico abbonamento, quindi anche in un'unica carta di credito. Gli abbonamenti aggiuntivi, oltre al primo, sono scontati del 50%. Digital News. Canonical ha pubblicato la nuova versione di Ubuntu, la 14.10. Ubuntu, lo ricordiamo, è la distribuzione Linux più popolare al mondo, oramai molto facile da usare, anche abbastanza diffuso. Con Ubuntu ci sono anche incluse le applicazioni più diffuse come LibreOffice, tutto gratis. Digital News. Unione Europea e Giappone investiranno 6 milioni di euro ciascuno, quindi in totale 12 milioni, per un progetto di ricerca che ha l'obiettivo di fornire ad ogni spettatore che assisterà alle Olimpiadi del 2020, che si terranno appunto in Giappone, una connessione wireless da almeno 1 gigabit al secondo. Per ognuno, quindi 20.000 persone in uno stadio, 50.000 persone in uno stadio, ognuna con 1 gigabit. Allora, il problema principale da risolvere riguarda la connettività nelle aree di grosso affollamento e soprattutto il Wi-Fi è una delle tecnologie che più viene danneggiata da tante interferenze, quindi tante persone che si collegano a un hotspot. E quindi sicuramente questo è un elemento, un tema molto, molto interessante. Pensate ad esempio alle fiere, quindi non solo agli stadi, ma tanti luoghi dove si fa business, dove internet è sempre più importante, ma dove ci sono molte persone. Digital News. Continua la battaglia contro il regolamento AGCOM sul diritto d'autore. Altro Consumo, Asso Provider e Movimento Difesa del Cittadino hanno inviato una diffida all'autorità per le comunicazioni per intimare la sospensione del regolamento sul diritto d'autore. Queste associazioni avevano fatto ricorso al TAR e hanno ottenuto un rinvio dal TAR del Lazio alla Corte Costituzionale. Quindi queste associazioni dicono, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, questo regolamento dell'AGCOM dovrebbe non essere utilizzato. In effetti questo regolamento è stato più volte contestato perché di fatto l'AGCOM, l'autorità indipendente per le comunicazioni, si sostituisce alla magistratura in molti casi in cui c'è una violazione del diritto d'autore. Insomma, un procedimento molto un po' complicato. Comunque l'AGCOM avrebbe la possibilità, ha la possibilità con questo regolamento di intervenire, magari chiudere un sito internet. Quindi la cosa è particolarmente delicata. Magari in molti casi è lapalissiano che ci sia la ragione di chi si rivolge all'AGCOM, ma ci sarebbero e ci sono sicuramente molte ipotesi con molti casi in cui il confine tra il lecito e l'illecito è molto, molto labile, molto sottile, quindi alcune derive potrebbero già la magistratura e già i tribunali, la giustizia tradizionale non sempre ci indovina. Insomma, figuriamoci se poi dobbiamo affidare questa materia ad un'autorità. Dunque, comunque, lasciamo ai tribunali e a chi ha fatto ricorso dibattere su questo tema. Vi informo, a proposito di notizie della settimana, sulle quali però va detto qualche cosa in più, che 110 parlamentari hanno firmato una proposta di legge che prevede l'obbligo del wifi libero da password in tutti gli esercizi commerciali italiani con superficie superiore a 100 metri quadri ed almeno 2 dipendenti, idem per le scuole, comuni e ospedali. Allora, al di là del fatto che bisogna vedere poi se questa proposta verrà poi approvata, che non è molto facile, però siamo alle solite. Si pensa che il wifi risolva tutto e invece bisognerebbe, come diciamo più volte, 2024 porre attenzione alla rete primaria di accesso. Inutile pensare che si debba mettere il wifi gratuito in una piazza, in un comune dove magari la connettività di base, perché non arriva dalla rete primaria, è piuttosto scarsa. Allora bisognerebbe porre attenzione alla rete d'accesso a internet, che è il vero problema del nostro paese. E poi internet è sicuramente un servizio utile, lo dite a noi, insomma, ne parliamo tutte le settimane e lo sbandieriamo in tutti i modi, ma deve essere gratuito? Io non sono molto convinto. Acqua, luce, gas sono gratuite? No, bisogna fare semmai norme che agevolino gli operatori, e lo Stato si deve fare carico dell'infrastruttura primaria di accesso, così come succede con le altre reti. Lo Stato costruisce le tubazioni per l'acqua, poi però l'acqua si paga, ci sono gli operatori che gestiscono l'acqua, idem per la corrente elettrica, per il gas. Questo è quello che bisogna fare, non fare wifi pubblico in piazza. Vabbè. Allora, questa settimana c'è stato SMAO, 3 giorni molto interessanti, sono 3 giorni piuttosto intensi per Milano perché c'è anche la Games Week, per chi è appassionato di videogiochi è sicuramente un appuntamento importante, c'è stato e c'è anche Drone Italy, un appuntamento dedicato solo ed esclusivamente ai droni. Ci sono più fiere che droni oramai, perché ci sono già alcuni appuntamenti in Italia dove si parla di droni. Comunque anche questo è un argomento molto interessante su cui è necessario fare chiarezza, e quindi perché c'è anche un regolamento recente di cui abbiamo parlato dell'ENAC, dell'autorità, che non permette di fare tutto quello che uno vorrebbe fare, ma da un certo punto di vista è anche giusto, perché bisogna garantire la sicurezza dei cittadini, perché poi se non ci fosse un regolamento vedremo droni andare avanti e indietro in tutte le città. Allora, sono stato a SMAO, ho fatto molte chiacchiere, ho parlato con molte start-up, c'è molto fermento. Allora partiamo proprio dalle start-up, da alcuni numeri che sono stati pubblicati questa settimana dalla School of Management del Politecnico di Milano. Esiste uno startup, un osservatorio sulle startup. Il responsabile scientifico è il professor Andrea Rangone, con il quale abbiamo parlato delle startup e dell'ecosistema delle startup in Italia. Allora, primo elemento. Diciamo da un paio di anni a questa parte, e lo vediamo un po' tutti, grande fermento intorno finalmente al mondo delle startup. Fermento in particolare su tutto un po' le componenti dell'ecosistema, quindi non solo perché incrementano in numero significativo, quest'anno raddoppiano il numero di startup, ma perché stanno succedendo cose belle anche a livello ad esempio di incubatori, di parchi scientifici, di investitori, di finanziatori. Quindi insomma, in una parola, un ecosistema che finalmente si è svegliato dopo un decennio di oscurantismo, di vuoto pneumatico, si è svegliato e adesso inizia ad ingranare. Ho la sensazione che si sia attivato anche in Italia finalmente un circolo virtuoso. Purtroppo questo circolo virtuoso non si sta ancora trasformando in risultati così eclatanti, no? Quindi l'atto di moto è positivo, i risultati ancora tutto sommato direi grigi, medi. Voi dite che il numero delle startup raddoppia, stiamo parlando di startup innovative secondo la definizione della legge, non di tutte le startup in generale. Perfetto, è proprio così, quindi raddoppia il numero di startup innovative secondo la legge. A questo punto aggiungo un pezzo, aumenta del 50%, in particolare quelle startup innovative che hanno ricevuto un finanziamento da un investitore istituzionale nell'ultimo anno. Anche questo è un buon segnale, quindi più startup innovative, high tech, che vengono finanziate, un buon segnale. Ecco, invece una cosa che aggiungo magari interessante, proprio guardando, se vogliamo, l'apice di questo sistema, cioè quelle startup finanziate da investitori, ecco, posso aggiungere anche il totale degli investimenti fatti in Italia, che nel 2013 è intorno ai 130 milioni di euro, in crescita rispetto al 2012, ma oggettivamente un valore ancora abbastanza piccolo. Vi do solo un riferimento: se lo confrontiamo con gli stessi soldi messi in startup innovative in Francia, il nostro valore, 130 milioni, è un ottavo. Quindi purtroppo siamo ancora molto indietro, ma come dicevo prima, l'atto di moto è quello giusto. Il circolo virtuoso si è attivato, quindi io mi aspetto un trend positivo nei prossimi anni. A proposito di numeri, senza dare troppi numeri, allora, il totale di startup innovative secondo la definizione della legge, e qui poi ci sono anche quelli che criticano, e con una certa dose di buone ragioni, dico io, il fatto che la legge ingabbi una startup all'interno di una definizione per ottenere poi dei vantaggi fiscali. Allora, le startup innovative secondo la legge e secondo i numeri del Politecnico di Milano sono, come avete sentito, aumentate e passano da 1227 del 2013 a 2716 nel 2014. Le startup finanziate, quindi quelle su cui sono stati fatti degli investimenti, sono invece molto, molto poche, da 113 a 197, e quest'anno sono, come diceva anche il professor Rangone, il trend degli investimenti è però in calo, e questo è un dato sicuramente non molto positivo. Tra poco continueremo, sentiremo anche la voce di alcune startup con alcuni servizi e prodotti che sono stati presentati a SMAO. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che dalla prossima settimana, in occasione di alcune novità del nostro palinsesto del sabato e della domenica, 2024 cambierà orario. La novità è che andremo in onda il venerdì sera alle 22, tra le 22 e le 23. Naturalmente non cambia nulla per il podcast, anzi avrete la possibilità di scaricare il podcast prima rispetto alla versione attuale di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Siamo stati a SMAO questa settimana con più di 200 startup, si è parlato molto di startup e, come avete sentito, il succo dei numeri che sono stati presentati dalla School of Management del Politecnico di Milano è che aumenta il numero di startup. Difficile poi sapere il numero totale di startup, perché se uno crea un'azienda, se va oltre la definizione della legge, non si sa se quella è un'azienda tradizionale o normale, o seppure è invece una piccola azienda di giovani che investono magari in tecnologia e quindi va sotto il nome tradizionale di startup. Comunque il succo è che aumenta il numero di startup, e quindi vuoi anche la crisi economica, ci sono sempre più giovani che coraggiosi, e a loro vanno i nostri applausi, i nostri complimenti, perché alcuni sono bravissimi, investono in aziende, cresce questo numero, ma i capitali purtroppo stanno diminuendo. Sicuramente il governo non ha fatto una buona mossa nell'aumentare la tassazione del capital gain, perché gli investitori guardano anche a quello, e se devono infilare soldi in un'azienda pensando poi a una uscita e ad una tassazione così come c'è oggi, che è salita al 26%, sicuramente non sono molto contenti, che da una parte ci sono sgravi fiscali, ma poi alla fine lo Stato si riprende i soldi, insomma non è molto positivo. Sentiamo Emila Birashid è uno dei più grandi esperti di startup in Italia, sicuramente da più di 10 anni si occupa di questo tema, gestisce startupbusiness.it, ma conosce, parla con decine e decine di startup ogni mese, quindi è sicuramente un punto di riferimento in Italia. Il livello è cresciuto soprattutto in qualità, c'è maggiore consapevolezza e ci sono anche progetti molto interessanti. Quest'anno siamo qui, è il decimo anno che portiamo le startup a SMAO, la prima edizione l'abbiamo fatta nel 2005. Oggi qua abbiamo visto quasi 200 startup che si sono presentate, e quindi il livello è cresciuto sicuramente. Ci sono già anche delle startup che non sono più startup, ma sono già diventate delle aziende più strutturate, che effettivamente vediamo da qualche anno, ma si ripresentano a SMAO. Sì, con però una capacità anche di essere già sul mercato, per cui se la prima volta come startup puoi venire a SMAO ospite, poi al secondo giro hai i numeri anche per poterti comprare lo spettende, quindi vuol dire che il business sta andando bene, e questo è un segnale molto positivo. Siamo comunque ancora nel regno dove serve uno slancio maggiore, che ancora purtroppo non c'è, perché abbiamo delle normative che sono non efficaci, lo dimostrano anche i recenti dati AIFI, che vedono così contrarsi in modo sensibile gli investimenti in early stage, come ha rilasciato l'AIFI qualche giorno fa. Quindi i primi finanziamenti per i primissimi anni di vita di una startup. Corretto. In più è stata aumentata la tassa sul capital gain, il che rende ancora più difficile fare gli investimenti. In più, dal 1 gennaio 2015 ci sarà la nuova legge sui veicoli di investimento, che rende ancora più difficile fare questo tipo di operazioni. In più ci sono tutte queste iniziative anche di origine pubblica che puntano più sul dare prestiti alle startup piuttosto che puntare sull'equity. Quello secondo me è un errore filosofico di base, così come lo è quello di dire per decreto quali sono le startup innovative e quali no. Dovremmo essere molto più inclusivi da un lato e molto più capaci di sostenere lo sviluppo dell'equity, cioè dell'investimento da parte di investitori privati in quote di aziende, e magari creare una situazione dove ci sono più gradi di investimento, quindi come se fosse una specie di borsa fatta a scalini, dove chi decide di entrare all'inizio lo può fare sapendo già che poi c'è qualcuno che investe a un secondo giro. Questo ancora non avviene, e purtroppo anche i numeri delle recenti indagini sono troppo bassi. Senti, dopo alcune considerazioni naturalmente di carattere non molto lusinghiero, però dacci qualche indicazione sulle idee, perché naturalmente per fare impresa, per fare una giovane impresa servono idee, stiamo parlando soprattutto di idee che nascono in ambito tecnologico. Che cosa vedi nel tessuto italiano? Più che l'idea serve la capacità di tradurre quell'idea in un progetto, quindi la cosiddetta execution. Quello che io vedo è una altissima qualità delle competenze, degli skill che chi oggi in Italia si mette a fare startup ha, e questo è il vero valore aggiunto, che è un valore che potrebbe creare 100 volte più economia nuova di quella che crea oggi se solo ci fosse un terreno un pochino più fertile. Ma il livello medio di chi oggi in Italia fa imprese innovative è un livello molto alto, anche se comparato con quelli di altri paesi europei. Allora, ascoltiamo la voce di alcune start-up che abbiamo intercettato, con le quali abbiamo parlato a SMAO. Alcune di quelle che abbiamo incontrato le avevamo già intervistate in altre occasioni, quindi non le naturalmente ve le riproponiamo, ci sono nel nostro archivio. Iniziamo da un settore tradizionale, e quanti ce ne sono in Italia che potrebbero beneficiare della tecnologia per esportare. Sapete che l'export e la tecnologia sono, e internet naturalmente, sono tre elementi molto importanti per la competitività delle imprese. Abbiamo parlato di questo con Andrea Carpinetti, che è uno dei fondatori di Design Italian Shoes. DIS disegnano e fanno produrre scarpe su misura per i consumatori. Sentite. Esatto, abbiamo voluto innovare il settore tradizionale della calzatura 100% made in Italy. Abbiamo creato un configuratore 3D che permette al cliente di creare la propria scarpa classica personalizzata 100% made in Italy. Quindi entra nel nostro sito, grazie al configuratore 3D, sceglie il modello, il laccio, la suola, il pellame e crea la propria scarpa fra 5 milioni di combinazioni. Poi la scarpa viene realizzata a mano da un artigiano nel distretto delle calzature nelle Marche in un tempo massimo di 4 settimane. Questo vuol dire che è rivolto a pochi? Rivolto a pochi, a un pubblico di nicchia che andiamo a cercare non solo in Italia ma soprattutto all'estero. Una delle dimostrazioni della famosissima e vecchissima coda lunga di internet. Esatto, abbiamo proprio voluto impostare il modello di business proprio sul principio della coda lunga. Quindi piccole produzioni di nicchia che si rivolgono a un mercato mondiale. Vendete già in tutto il mondo? Sì, siamo online da luglio, abbiamo già venduto comunque all'estero, in particolar modo Stati Uniti e Russia, questi due mercati dove abbiamo venduto. La differenza che cosa dov'è? Nel configuratore, nella piattaforma software o nell'artigiano che fa le scarpe? La differenza rispetto agli altri è che abbiamo abbinato scarpa 100% made in Italy customizzata, quindi i brand made in Italy oggi non propongono la customizzazione della scarpa e noi l'abbiamo voluta proporre in maniera innovativa con un configuratore 3D che permette quindi al cliente di vedere real time la scarpa che andrà poi ad acquistare. Il sistema è semplice e lo stiamo proponendo adesso anche in negozi, quindi vogliamo affiliare anche dei negozi che spingano il nostro servizio, quindi il cliente può andare anche in un negozio segnalato sul nostro sito, provare la scarpa, toccarla con mano, scegliere dal nostro book pellami tutti i pellami che poi andrà a configurare e real time con un tablet in negozio configurare la scarpa. Ecco, a proposito di provare la scarpa, se io configuro la scarpa, ordino la scarpa, mentre in molti altri casi quando faccio commercio elettronico io posso rispedire indietro, c'è anche insomma diritto del consumatore a rispedire indietro il prodotto che ho acquistato entro 2 settimane, nel vostro caso? Allora, la normativa ci direbbe che essendo un prodotto altamente personalizzato il recesso dell'ordine non può essere fatto. Noi comunque in questa fase ci accolliamo questo rischio e quindi se il consumatore non sta bene alla scarpa ce la riprendiamo indietro e la rifacciamo secondo la sua taglia ideale. Adesso cambiamo scenario, cambiamo settore, stiamo parlando e parleremo nei prossimi minuti di posizionamento all'interno di edifici, di analisi dei flussi in ambienti confinati, quindi all'interno degli edifici. Jacopo Carreras è l'amministratore delegato di UOPER, che ha presentato un servizio che esiste già da qualche mese, ha presentato anche Asmao Retailer In. Sentiamo di che cosa si tratta e a che cosa serve. Allora, l'ambito applicativo è quello del cosiddetto in-store analytics, ovvero dare degli strumenti tecnologici per la comprensione di quello che è il comportamento del cliente in un punto vendita, come ad esempio in un supermercato. Qual è il nostro punto di partenza? Il nostro punto di partenza è la seguente domanda. Cosa succede dal momento in cui un cliente entra nel punto vendita a quando arriva alla cassa? Si sa moltissimo di quello che il cliente compra a partire dallo scontrino, poco o niente si sa di quello che è il comportamento nel punto vendita. Come funziona Retailer In? La risposta appunto che noi proponiamo in Retailer In. Come funziona? RetailerIn parte da dati di localizzazione di quelli che sono ad esempio i carrelli e i cestelli della spesa in un supermercato. Quindi noi andiamo a tracciare il movimento di questo carrelli e cestelli della spesa in un supermercato con una precisione molto elevata, di circa 15 cm. Raccogliamo questi dati, quindi dati di come i clienti si muovono con il carrello e il cestello della spesa in un supermercato in ogni momento. Andiamo a mettere tutti questi dati in cloud, li analizziamo e ritorniamo un cruscotto che permette a chi deve gestire un punto vendita di avere un'analisi dettagliata di come i clienti si comportano nel suo negozio. Quindi il risultato finale è che appunto io vedo dove passano i clienti, dove si fermano, eccetera, eccetera. Poi arriviamo anche alla tecnologia che voi utilizzate per fare questa analisi del posizionamento. Hai detto che potete essere precisi fino a 15 centimetri, perché è sicuramente molto, molto interessante. Rispondimi a questa domanda: che tipo di esigenza coprite e a che tipo di domanda rispondete con questa tecnologia? Cioè, perché un commerciante, adesso stiamo facendo l'esempio del supermercato, ma poi naturalmente possiamo utilizzare altri esempi in altri ambiti, in altri settori o in altri ambienti chiusi, confinati. Nel supermercato che tipo di risposta date? Beh, la risposta che diamo ad esempio a chi deve gestire un punto vendita è la capacità di capire ad esempio dove posizionare determinate campagne promozionali in funzione di quello che è il comportamento del cliente nel punto vendita. Quindi attraverso il nostro strumento chi deve gestire il punto vendita ha la possibilità di capire dove mettere le campagne promozionali, capire come riorganizzare l'assortimento merceologico del negozio, in quale corsie mettere quali prodotti, può capire come ottimizzare la gestione stessa del punto vendita, banalmente quando aprire o chiudere una determinata cassa. Questi sono esempi appunto di come può essere utilizzato il nostro strumento nell'ambito di un supermercato. Come fate a capire con questa precisione che tu mi hai descritto dove mi trovo io mentre passo col mio carrello al supermercato col mio cestello della spesa? Beh, la tecnologia di localizzazione che sta alla base di RetailerIn è una tecnologia di localizzazione basata su dei piccoli tag attivi che vengono posizionati sui carrelli e cestelli della spesa. Questi, congiuntamente a delle antenne posizionate sul soffitto, sono in grado di localizzare la posizione dei carrelli e cestelli con circa 15 cm di precisione. Questa è una tecnologia che in realtà non sviluppiamo noi, ma sviluppa un nostro partner tecnologico che si chiama Kuppa, che è un'azienda finlandese, una spin-off di Nokia. E racchiude circa 7-8 anni di ricerca e sviluppo prima in Nokia e successivamente in questa spin-off. Quindi voi posizionate questi tag attivi che funzionano con tecnologia Bluetooth, hanno una batteria interna che trasmettono a questa antenna che voi, a queste antenne, sono più di una naturalmente, che voi mettete sul soffitto e riuscite a mappare tutti i movimenti. Dopodiché questi dati vanno in un gestionale nel cloud, su internet, giusto? Esattamente, questi dati vengono raccolti su internet, sui nostri server, dove appunto parte tutta l'elaborazione di RetailerIn. Questi dati quindi vengono elaborati, vengono costruite appunto degli indicatori di prestazioni che è in grado di supportare lo store manager in quelle decisioni che abbiamo appunto detto in precedenza. Possiamo fare degli altri esempi anche di fantasia, ma immagino insomma che ci siano già delle idee di altre applicazioni non solo nei supermercati. Assolutamente, l'ambito dei supermercati è uno dei molti che possono essere supportati con la stessa tecnologia di base, quindi tecnologia in grado di localizzare con elevata precisione e successivamente costruire tutta una serie di informazioni a partire da questo dato. Altri scenari di esempio sono scenari relativi alla sicurezza, quindi tutti quegli scenari dove ad esempio c'è la necessità di tracciare ad esempio il personale per motivi di sicurezza. Banalmente può scattare un allarme antincendio, ci può essere un'emergenza di incendio. E in questi casi è necessario sapere con elevata precisione chi è presente e chi no in un determinato ambiente e soprattutto sapere per le persone che non sono presenti dove si trovano. Questo è un esempio, ma ce ne sono molti altri che possono essere comunque supportati con la stessa tecnologia di base. Questo è 2024, adesso ci fermiamo per qualche minuto. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. A tra poco. 2024. Riprendiamo 2024, dalla prossima settimana vi ricordo passeremo al venerdì sera, quindi la nuova fascia oraria in cui andremo in onda sarà il venerdì sera tra le 22 e le 23, lasceremo il posto al sabato pomeriggio a Marta Cagnola con il Sabato del Villaggio, il nuovo programma la nuova fascia oraria del sabato pomeriggio tra le 15 e le 18. Saremo comunque insieme per un pezzetto di quella trasmissione, quindi ci sarò anch'io a parlare di tecnologia. Potete trovarci anche su Facebook e su Twitter, cercate 2024 o Enrico Pagliarini. Allora, stiamo viaggiando, navigando tra le startup che abbiamo incontrato durante la 3 giorni di SMAU. Tantissime nuove idee, ci sono ad esempio molte novità interessanti, molte innovazioni, molte nuove aziende nel settore medico-sanitario. Ci sono una miriade di proposte nel marketing digitale, in molte tecnologie a supporto delle aziende, quindi ad esempio CRM innovativi per l'azienda, fatturazione elettronica, proposte di questo genere, insomma tantissime per la digitalizzazione delle aziende. Un settore molto interessante dove vedo molto fermento è quello della mobilità, della condivisione dei viaggi, dell'ottimizzazione dei percorsi. In quello c'è molto da fare, ci sono molte opportunità. Due esempi, due startup che abbiamo incontrato. Iniziamo dall'idea, un'idea che sta prendendo corpo, che si chiama EasyMove. EasyMove consente al viaggiatore di mettere insieme tratte di diversi operatori extraregionali e usufruirne attraverso l'acquisto di un biglietto unico. Stiamo parlando di operatori prevalentemente di autobus, giusto? Sì, al momento stiamo puntando sul trasporto di persone su gomma, ma la nostra piattaforma è pronta e presto lo sarà anche online a tutti i mezzi di movimentazione persone via terra, via mare, aereo e via discorrendo. Gli operatori ai quali voi vi rivolgete mettono a disposizione questi dati e poi anche la possibilità di vendere i biglietti volentieri o sono un po' restii? Sicuramente c'è una fase di apertura che è iniziata da qualche anno, però noi vogliamo appunto facilitare l'operazione di ricerca dei viaggi per gli utenti proprio affinché gli operatori possano aprirsi ancora di più, sia per un vantaggio dei viaggiatori che troveranno più soluzioni grazie a EasyMove, sia per gli operatori stessi che possono aumentare i loro margini combinando le proprie soluzioni a quelle dei loro colleghi, competitors, che dir si voglia. Allora, in effetti l'idea è buona, mettere in relazione, cioè creare una piattaforma dove si possano trovare le tratte di autobus extraurbani che sono diffusi un po' in tutta Italia, ma soprattutto nel sud Italia. Non a caso questa idea nasce in Calabria, per permettere magari di combinare più tratte. Gli operatori dovranno poi mettere a disposizione tutti i sistemi di gestione anche di bigliettazione elettronica che magari alcuni hanno già, altri non hanno. Comunque questo è un esempio di cose che si possono fare. Metropoli è una piattaforma che è stata realizzata da Caramella Multimedia. Andrea Natale ci ha spiegato di che cosa si tratta. Qui stiamo parlando di ottimizzazione dei percorsi, di ottimizzazione della gestione di flotte di persone che stanno in giro, come potrebbero essere manutentori oppure potrebbero essere personale di una società di vigilanza. Facciamo proprio questo esempio. Consiste in un software che consente la pianificazione, il controllo, la gestione di forza lavoro sul territorio. L'istituto di vigilanza è un esempio, è uno dei primi esempi, anzi è l'attività, la prima attività che abbiamo, il primo cliente che abbiamo avuto in realtà. Questo software supporta, è a supporto della centrale operativa intanto, che quindi ha la percezione in ogni momento, in tempo reale, di tutto ciò che succede alle guardie. Perché finora non erano collegate se non con la radio. Sono collegati in realtà tramite un sistema GPS, per legge devono esserlo. In realtà questo strumento traccia soltanto la posizione, non consente alcun livello di interazione tra la guardia e la centrale operativa e soprattutto è fisso sull'auto. Invece il vostro è sullo smartphone. Che cosa mi permette di fare? Permette di seguire il lavoratore. In realtà è uno strumento di produttività che non soltanto traccia la posizione del GPS, ma consente anche di instaurare un rapporto bidirezionale tra l'operatore sul territorio e l'eventuale centrale operativa, in questo caso. E consente di compilare dei rapporti di intervento anche dallo smartphone. Esegue una funzione, posso scrivere un report. In tempo reale questo report arriva alla centrale operativa. Eccetera, eccetera. Un sistema, come tanti altri esempi, per eliminare la carta, ad esempio, che in molte aziende italiane è ancora molto presente. Fare poi analisi dei dati, controllare il lavoratore dove si trova, anche per motivi di sicurezza. C'è tutto un tema di privacy e questo va affrontato con i lavoratori, ma sono sempre più spesso i sistemi che permettono di aumentare la produttività, naturalmente anche controllando cosa succede sul territorio. Però devo dire che in alcuni casi ci sono anche dei dipendenti che magari perdono tempo, un po' troppo tempo, al bar, e magari con questi sistemi possono anche essere sollecitati a prendere un caffè in modo un po' più veloce. Dunque, naturalmente non potevano mancare i droni e le stampanti 3D. Di stampanti 3D e di droni abbiamo parlato spesso e molto a 2024. A proposito di stampanti 3D, questo è un mercato che cresce, ne abbiamo parlato con Giacomo Bartoloni, che è uno dei fondatori di Keytech, e abbiamo fatto subito una domande un po' da esame. Che cos'è la stampa 3D per chi se la fosse dimenticata? Ok, una stampante 3D non fa altro che aggiungere materiale su materiale per poi ottenere degli oggetti tridimensionali. Perciò strato su strato si va a comporre l'oggetto che vogliamo, partendo da un disegno in tre dimensioni, disegnato solitamente con un CAD. Che cosa posso costruire con una stampante 3D? Quello che vuoi. È largo all'immaginazione, non ci sono limiti. Con che tipo di materiali? Noi stampiamo con PLA, la bioplastica, o ABS, è la plastica dei mattoncini Lego. Sì, diciamo che la plastica è uno degli elementi che viene maggiormente utilizzato. Poi, se andiamo in ambito industriale, si possono pensare a stampanti 3D o sistemi di, come si dice, additive manufacturing di diverso tipo. Ad esempio, tu in mano mi stai facendo vedere una cosa, che cos'è? In alluminio? È in alluminio, sì. Noi ci siamo arrivati per con una prototipazione rapida in plastica e poi siamo andati a colpo sicuro in fonderia a fondere l'alluminio. Ah, quindi prima si fa il prototipo con la stampante 3D e poi non si spreca né tempo né materiali né facendo prove inutili e si va direttamente in fonderia. Ma a chi serve la stampante 3D? L'hai detto, agli studi tecnici, alle aziende manifatturiere, a chi fa meccanica, per arrivare più velocemente e con minori costi all'oggetto definitivo. Allora, voi siete partiti da quanto tempo? Da poco? Cioè, avete cominciato a produrre da pochissimo? Da qualche mese. Ci siamo costituiti il 30 giugno 2014. Quindi siete molto giovani, una vera e propria startup. Uno potrebbe pensare, sicuramente stiamo parlando di un mercato che si sta espandendo. Ci sono tante altre aziende che stanno producendo stampanti 3D, insomma, questo è un mercato dove già si trovano molti prodotti. Perché innovare ed entrare in questo settore? Perché abbiamo le nostre carte da giocare, cioè noi puntiamo sulla buona progettazione, sull'eccellenza del disegno meccanico, dello studio, dell'usabilità, sia a livello hardware che software. Infatti proponiamo all'interno, le nostre stampanti espongono un'interfaccia web HTML5, quindi utilizzabile sia da smartphone e tablet, con l'utilizzo di file in formato standard. Senti, una stampante 3D come le vostre quanto costa? Allora, il modello Genesis, che è già in commercio, costa 2.200 euro, esclusa IVA. E il nostro nuovo prototipo, il nostro nuovo modello, Cubetto, la vogliamo lanciare a 800 euro. Più IVA? Più IVA. Prodotta dove? A Firenze, tutta prodotta a Firenze. Filiera produttiva di alta qualità. Siete all'ascolto di 2024 su Radio 24, ci fermiamo per un minuto. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Chiudiamo questa puntata parlando di ricatti digitali. Per quale motivo? Allora, per un motivo molto semplice, perché nelle ultime settimane abbiamo avuto notizia, ne hanno parlato anche altri media, che alcune decine di comuni, quindi anche la pubblica amministrazione, è stata oggetto di ricatti digitali, chiamiamoli così. Pirati informatici che prendono il controllo dell'infrastruttura e dei dati e dicono: volete che vi sblocchiamo tutto, pagate il riscatto. Ne parliamo con Andrea Zapparoli Manzoni, che è un esperto di sicurezza informatica, membro del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, nonché amministratore dei dialoghi che si occupa appunto di security. Andrea, bentornato 2024. Grazie, grazie molto. Partiamo da una definizione molto semplice del ricatto online. Il termine che viene utilizzato in lingua inglese, non so se è il termine tecnico, comunque viene definito come ransomware. Che cosa significa? Che cos'è? Ma allora, letteralmente ransomware significa software per realizzare estorsioni. Ransom in inglese significa riscatto. In realtà questa è solo una delle modalità per realizzare questo genere di crimini. Per esempio, ci sono crimini analoghi, voglio dire crimini di estorsione, sui social network, che non si realizzano tramite un malware, ma tramite la sottrazione dell'account di una persona o di un'azienda, chiedendo poi un riscatto per restituirlo. Quando tu dici software per estorcere denaro, stiamo parlando quindi di un software, che cioè di un programma, di un virus, esatto, che arriva sul mio computer e cosa succede? E lo blocca tipicamente, o cifra tutti i dati su quella macchina, e a quel punto chiede un riscatto per restituire, diciamo, la disponibilità dei dati o della... Per esempio, c'è un Trojan che colpisce telefoni Android, che blocca il telefono e te lo rende inutilizzabile. Quindi finché l'unica cosa che vedi sulla schermata, sullo schermo del telefono, è un messaggio che dice paga, altrimenti non potrai più usare il tuo telefono. Quindi di fatto il pirata informatico, lo chiamiamo hacker, malicious hacker, quel che l'è, prende il controllo, nel caso di cui tu hai fatto l'esempio, del telefono. Nel caso invece della pubblica amministrazione, di cui parleremo tra poco, di computer veri e propri. Assolutamente sì. Nel caso del telefono, questo Trojan in particolare, l'ultimo si chiama Caller, si diffonde via SMS, quindi sostanzialmente con una logica di phishing, cioè ti arriva un messaggio indesiderato con un argomento che ti attira, spinge, sì, a cliccare, a fare una qualche azione che non dovresti fare, tu la fai, scarichi il malware, quindi in questo caso Caller, e a quel punto il tuo telefono è bloccato. La stessa cosa è successa a questi comuni, circa 200, che sono stati colpiti nell'ambito di un'operazione di pesca a strascico, diciamo, quindi non è un attacco mirato, ha colpito migliaia e migliaia di soggetti. Evidentemente c'era una lista di indirizzi che è stata utilizzata per fare questo attacco, che conteneva email di comuni italiani, quindi poi una certa percentuale è stata indotta a attivare questo malware e quindi è stata infettata. Sì. Quindi ricapitoliamo, partendo anche proprio da questa notizia: ci sono una serie di pubbliche amministrazioni, di comuni in modo particolare, ma non siamo sicuri che siano solo comuni, e che in queste settimane, almeno abbiamo appreso che in queste settimane ci sono decine di comuni che hanno ricevuto questo attacco. I pirati, alcuni dicono che siano russi, ma chi lo sa poi se sia... Tipicamente sono russi. Se sia vero oppure no. Hanno preso il controllo di alcuni dati che risiedono all'interno delle infrastrutture informatiche della pubblica amministrazione, bloccando non solo i dati ma alcuni servizi. Assolutamente. Hanno per esempio cifrato alcuni database che sono relativi alle anagrafi, di fatto quindi creando un'interruzione del servizio. L'anagrafe non era più disponibile. Sì. In alcuni casi stanno ancora lavorando per ripristinare la situazione, e quindi questo è uno dei primi casi in Italia in cui si ha un impatto in termini di interruzione del servizio verso i cittadini e le imprese, perché è stata colpita la pubblica amministrazione, e io lo ritengo un segnale importante da non sottovalutare. Cioè, questa non è una cosa nuova in assoluto, perché anche tu lo hai ricordato a 2024 qualche mese fa, ma è una cosa che già succede da tempo nelle aziende in giro per il mondo. Ma assolutamente sì, in realtà questo attacco specifico che ha colpito anche questi comuni non è particolarmente sofisticato, è un genere di attacco che ormai viene realizzato da anni con la logica del phishing, quindi dell'email maliziosa, con un testo che in questo caso era del tipo ecco la fattura che mi devi pagare o ecco gli estremi del bonifico che mi devi fare, e poi un link che ti portava a scaricare un eseguibile che in realtà era un malware, no? Sì. L'unica particolarità di questo attacco è che questo Trojan legge la rubrica delle vittime e usa gli indirizzi che trova nella rubrica per colpire altre vittime. Quindi arrivava un messaggio che sembrava provenire da un contatto. Sì, da un amico, da un collega. Quindi uno si fida e dice, ok. E quindi però il messaggio in sé aveva tantissimi elementi altamente sospetti, era sgrammaticato, era inatteso, quindi voglio dire... mi appare abbastanza evidente che sia necessario elevare un pochino la consapevolezza su questi temi, sì, per evitare di cadere vittima di questi attacchi anche abbastanza banali, che però poi diventano effettivamente fastidiosi. Quindi qua, diciamo, dal punto di vista tecnologico c'è poco, cioè, o meglio, c'è tutto quello che i pirati hanno fatto, però a questo punto, se uno, appunto, una persona umana apre questo link maligno, ci sono software che possono evitare che però questi virus si diffondano nella rete interna o dell'azienda oppure di una pubblica amministrazione? Allora, questo dipende. In alcuni casi questi malware sono, come si dice, polimorfici e vengono generati nel momento dell'infezione. Di conseguenza gli antivirus non hanno mai visto quel malware in particolare, sì, perché è stata creata una versione ad hoc per quello specifico attacco. Questo è un trend di grande sofisticazione del malware che vediamo sempre più spesso. In questo caso l'antivirus da solo, come linea di difesa, risulta sempre meno efficace, perché non è possibile che un antivirus abbia le impronte digitali di malware che vengono generati al momento. Quindi comunque è una cosa complicata da risolvere. Beh, tecnicamente questi attaccanti, che sono dei criminali organizzati, a questo punto sono degli imprenditori del crimine informatico, hanno delle capacità tecniche o possono attingere, acquistare, sì, servizi di persone con capacità tecniche elevatissime. Senti, parliamo del riscatto. Questi, sì, vogliono soldi, di fatto. Questi vogliono soldi. L'obiettivo di questo genere di attacchi è fare soldi facili e velocemente. Di conseguenza propongono di pagare questo riscatto per fornire le chiavi per decifrare i dati che sono stati cifrati a cifre anche di fatto tutto sommato modeste. Nel caso specifico chiedevano un equivalente in Bitcoin, che è questa moneta virtuale che si usa su internet per fare transazioni anonime, di 400 euro circa. Sì. Quindi una cifra che sia un privato, un piccolo studio professionale, cioè, può pagare, insomma, anche chiedono dei milioni. Può, sì, pagare, sì, sì, non chiedono dei milioni. Ok, quindi uno cambia Bitcoin online, va su uno dei sistemi, delle piattaforme che cambiano soldi normali, tradizionali, in Bitcoin, e poi li deve versare su un conto. Li versa su un conto e tra l'altro alcuni esperti italiani hanno fatto un'analisi molto bella, perché queste transazioni sono anonime, nel senso che non si sa chi sono gli attori, ma sono totalmente trasparenti da un punto di vista degli importi e di dove vanno i soldi. Sì. Quindi è stato possibile tracciarli, cosa che fa parte, voglio dire, è una caratteristica del sistema Bitcoin. E quindi si è visto che tutti questi versamenti da 400 euro arrivavano su dei piccoli conti con qualche migliaia di euro ciascuno, i quali periodicamente due o tre volte al giorno venivano svuotati per andare ad alimentare un unico conto che a pochi giorni fa aveva 45 milioni di dollari. Il corrispondente di 45 milioni di dollari in Bitcoin, che significa che lì versano i proventi di tutte queste campagne di attacchi. Sì, perché ricordiamo che appunto la rete Bitcoin, il sistema Bitcoin prevede la trasparenza delle transazioni, quindi si sa dove finiscono i soldi e quali sono i conti, ma non si sa, diciamo, dietro a quel conto chi c'è, perché ce l'hanno, siamo anonimi rispetto ai Bitcoin. E sì, poi fanno quello che tecnicamente si chiama cash out, cioè poi portano da questo conto da 45 milioni in questo momento verso altri piccoli conti. Sì. Dai quali poi estraggono il cash. Questo dimostra che in molti pagano. Questo dimostra che purtroppo di fronte a un attacco di questo genere molti pagano. Tu dici però non bisogna pagare. Allora, naturalmente questo è un discorso un po' spinoso, io non vorrei suonare troppo filosofico. Sì. Il fatto è che non bisogna assolutamente alimentare questo fenomeno, per cui bisogna trovare tutte le contromisure possibili per non mettersi nella condizione di dover pagare perché non si hanno alternative. Per esempio nel caso di un comune del quale si è letto sui giornali, dove i dipendenti hanno messo mano al portafoglio e hanno pagato di tasca propria, cioè, il riscatto, ha fatto una colletta per raccogliere una colletta perché non riuscivano a lavorare. Io li stimo personalmente, però devo dire che sarebbe meglio non mettersi nella condizione di dover pagare, quindi per esempio avere i backup al sicuro, mentre invece in molti di questi casi i backup sono stati cifrati insieme ai dati e questo ha creato una condizione di insostenibile, no? Senti, questo può succedere quasi a tutti o le grandi istituzioni sono protette? Allora, noi abbiamo notizia di attacchi che hanno di questo tipo, che hanno colpito organizzazioni di ogni dimensione. Okay, quindi... La vera differenza qual è? Che una grande organizzazione ha delle procedure, dei sistemi di disaster recovery e di business continuity, di ripristino dei dati un po' più sofisticati, per cui sì. Subisce l'attacco ma poi non ne paga le conseguenze così tanto quanto una realtà piccola e non organizzata. Sì. Senti, stiamo parlando di attacchi che arrivano su computer, giusto? Sì. O vale lo stesso discorso per gli smartphone? Vale sempre più anche per i device mobili, quindi smartphone e tablet, assolutamente. Android, iOS, Microsoft, allo stesso Windows, allo stesso modo? Per una serie di ragioni tecniche è più facile e quindi anche più probabile che questi attacchi avvengano su piattaforma Android. Sì, però, anche per la diffusione, perché per se devo fare un attacco lo faccio all'80% del mercato. Considerate, no? Quello che dicevamo prima, cioè questi criminali puntano a fare soldi facili e in fretta, quindi tutto quello che gli fa perdere tempo o che è un po' più complicato tendono a evitarlo. Quindi è chiaro che vanno a colpire la grande utenza di terminali Android che numericamente sì, è più elevata. Senti, se tutti questi servizi fossero nel cloud... ad esempio l'anagrafe del comune fosse completamente in cloud, saremmo più protetti rispetto ad attacchi di questo genere? Allora, di per sé il cloud ha tutta una grande serie di vantaggi, per esempio rispetto al fatto che un meteorite cada sul server del comune, no? Sì. Perché chiaramente avendo i dati in cloud da qualsiasi altra parte del mondo o una loro copia, si riesce a essere più tutelati. Il problema, come al solito, è nell'uso che si fa del cloud. Per esempio, se io su un computer attaccato da questo ransomware ho attivo il mio account Dropbox o Google Drive o qualsiasi altra cosa, e nel momento in cui sono loggato dal computer infettato, la partizione cloud dove stanno i miei dati è visibile. E il malware cifra anche i dati nel cloud. Sì, sì. Però diciamo se utilizzo un servizio nel cloud, quindi non parlo di dati, se utilizzo un servizio come potrebbe essere la posta elettronica, ad esempio, forse sono più sicuro, più tranquillo? Ma diciamo che ovviamente in questo caso io sto acquistando anche delle... Servizio di sicurezza. Dei servizi di sicurezza che il provider di questa fornitura metterà in campo. Senti, in generale tu, al di là di quello che possiamo consigliare alle pubbliche amministrazioni, alle aziende, ma diciamo in generale anche al cittadino, a me che sto a casa col computer, quali consigli diamo per evitare che succedano queste cose? Ma io darei dei consigli molto pratici, molto terra terra. Innanzitutto a aguzzare l'ingegno e quindi sviluppare la consapevolezza che viviamo in un mondo che sta cambiando molto velocemente, dove questo genere di attacchi diventano sempre più frequenti. In alcuni casi si ricevono quotidianamente attacchi di questo genere. Stare attenti a non aprire allegati, non selezionare link sia arrivati per mail che arrivati per SMS che sui social network, che sono molto usati come veicolo di attacco. Stare molto attenti a quello che si clicca e ai percorsi che si fanno, spesso un po' sopra pensiero mentre si naviga, no? Sì. Quindi l'attenzione, il primo firewall, fammi dire, è l'uomo in realtà, sì, di questo genere di fenomeni. Poi c'è la tecnologia, i processi, eccetera. Da un punto di vista poi delle prassi, sicuramente rispetto a attacchi di questo genere, cioè basati su ransomware, io consiglio di tenere i backup ben separati dalla macchina o dal device che si utilizza, in modo che se questo viene compromesso, e può succedere, comunque questo backup rimanga al sicuro. Sì, certo, il backup sono 20 anni, 30 anni che ne parliamo, ma... Sì, la facilità, per esempio, dei servizi di storage in cloud, in questo senso nasconde un rischio, cioè che uno non ci pensi più e quindi lo lasci, per esempio, sempre attivo questa connessione col cloud. A quel punto, di fatto, i dati è come se fossero... C'è una continuità per cui si attaccano, ma attaccano anche il cloud. Attaccano anche il cloud tramite la macchina infettata, sì, localmente. Sì. Quindi... Tu dicevi prima non pagate il riscatto. Sì. Non mettetevi nella condizione di doverlo pagare. Ecco, questo è certo, è diverso, okay. Perché se uno appunto è stato distratto perché ha cliccato su quella mail e ha infettato tutto il sistema, oppure non ha fatto il backup, oppure non ha altri sistemi di sicurezza in azienda, è nella condizione di dover pagare il riscatto, ed effettivamente non ci sono molte strade, perché poi questi pirati informatici riescono a cancellare tutti i dati che io ho in azienda, giusto? Loro utilizzano delle tecniche, si dice, di wiping, quindi mentre cifrano i tuoi dati, cancellano in modo irrecuperabile la versione in chiaro. Quindi noi abbiamo tentato con degli esperti di grandissima capacità di recuperare i dati cifrati, ma fino ad oggi nel mondo nessuno è riuscito, tranne un caso singolare nel quale sono stati attaccati gli attaccanti e gli hanno rubato le chiavi di cifratura che avevano usato per cifrare i dati delle vittime. E chi è stato Robin Hood? Che poi ha dato... Una sorta di Robin Hood, un'azienda di sicurezza che in una legislazione diversa dalla nostra, dove queste cose si possono fare, ha attaccato i criminali e gli ha rubato le chiavi e quindi poi le ha distribuite a tutte le vittime, sì, vanificando l'attacco. Qui non si può fare. Qui non si può fare. Bene, Andrea, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, altrettanto. Così ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione di questa settimana. Una cosa che non ho detto prima a proposito di investimenti e di capitali per finanziare, per supportare le startup. Allora, pensate, è notizia di questa settimana, che la piccola Magic Leap della Florida ha ricevuto una iniezione di capitali pari a 542 milioni di dollari per lo sviluppo della propria tecnologia di realtà virtuale e realtà aumentata. Dopo questo finanziamento, la società viene dunque valutata circa 2 miliardi di dollari. Ad investire sono stati Google, Qualcomm, Legendary Entertainment e una serie di fondi di investimento e di venture capital. Quindi già capiamo che questo solo investimento vale molto di più di tutti gli investimenti. Allora, secondo la School of Management del Politecnico di Milano, quest'anno saranno circa 110 i milioni che verranno investiti in tutto il sistema italiano, anche se va detto che, così come è difficile cercare di fare una lista, un'anagrafe delle startup in generale, al di là di quelle che vengono definite dalla legge, per cui in quel caso si possono elencare perché sono definite dalla legge e per accedere appunto alle agevolazioni devono emergere in modo trasparente. Però in generale è difficile capire se una nuova azienda è una, si può definire startup, oppure è una nuova azienda creata come una normalissima nuova azienda, oppure una vecchia che riapre in un altro ambito o si espande creando altre aziende. Stessa cosa vale per i capitali. È difficile capire se un capitale viene investito in una piccola azienda con tutte le dinamiche tipiche della startup, oppure se è un investimento in un'altra società. Comunque fatto sta che qui ci sono comunque tante buone idee, tanti ottimi professionisti, giovani ragazzi e ragazze che hanno anche capacità manageriali e competenze tecniche e tecnologiche, ma i capitali ancora sono scarsi, e solo questo investimento che abbiamo citato degli Stati Uniti è molto più elevato di tutto l'investimento nell'ecosistema delle startup in Italia. Detto questo, non bisogna non essere ottimisti, perché comunque le idee ci sono, ogni tanto ci sono anche capitali adeguati. Cito solo un caso di Bion, che è un'azienda italiana di Bologna che ha una serie di brevetti in ambito delle plastiche, delle bioplastiche, che ha raccolto in borsa circa quasi 7 milioni di euro, si è quotata alla fine di questa settimana, e il rialzo nel primo giorno, a dimostrazione che il mercato premia le buone idee, è stato del 28% nel giorno del debutto. Quindi ci sono comunque delle storie di innovazione tecnologica positive anche nel nostro paese. Quindi insistete, ragazzi, e vedrete che se la vostra idea è buona, in qualche modo può sfociare. Allora, questo è 2024. Vi ricordo che dalla prossima settimana passiamo ad una nuova fascia oraria. Dopo 7-8 anni al sabato pomeriggio, lasciamo spazio ad un nuovo contenitore, ad un nuovo programma che verrà condotto da Marta Cagnola al pomeriggio del sabato, il sabato del villaggio, tra le 15 e le 18. Ci sarò anch'io per una decina di minuti per parlare di tecnologia, ma 2024 si sposta al venerdì alla sera tra le 22 e le 23. Da un certo punto di vista torniamo alla nostra vecchia fascia oraria, perché 2024 nacque nel lontano 1999 assieme a Radio 24. Andavamo in onda tutti i giorni, il programma andava in onda tra le 21 e le 22, poi dopo l'11 settembre venne spostato più tardi tra le 22.30 e le 23.30, e torniamo nella fascia serale il venerdì, però per una puntata sola durante la settimana, mentre invece tanti anni fa il programma era quotidiano, un'ora al giorno di tecnologia. Allora, potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica per qualsiasi cosa, 2024@radio24.it, oppure potete anche utilizzare Facebook oppure Twitter. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.